Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Trump e il Covid, l'opacità, i rischi e i virus che non si vedono. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. He's receiving outstanding multidisciplinary care, state of the science for coronavirus infection. President Trump made a surprise visit in his motorcade to supporters outside Walter Reed National Military Medical Center. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Buon lunedì, buon inizio di settimana da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi proveremo a ricapitolare gli ultimi giorni particolarmente caotici e convulsi che sta vivendo non soltanto il presidente statunitense Donald Trump, ma tutta l'amministrazione alla Casa Bianca. Una serie di messaggi contraddittori, una serie di ambiguità, quell'ultimo giro in macchina avvenuto ieri, una ventina di minuti al di fuori del Walter Reed Medical Center in Maryland, dove è ricoverato da venerdì scorso, hanno fatto saltare sulla sedia un po' di analisti, ma anche di cittadini americani e non solo. Proveremo a fare il punto, perché le giornate che si stanno susseguendo, le ore anzi dovremmo dire, sono molto critiche, molto nevralgiche per tutti gli Stati Uniti d'America. E ve lo anticipo, avremo una interessantissima e autorevolissima voce che ci racconterà come si stanno muovendo il fronte democratico e quello repubblicano. Naturalmente, la prima cosa da fare, visto che è lunedì, è sfogliare i nostri dossier. Il primo ci riporta in Nagorno-Karabakh, un po' di aggiornamenti dal fronte caucasico, perché continuano gli scontri tra le forze azere e quelle armene. Dalle trincee i missili a lungo raggio hanno raggiunto ormai anche i centri abitati, con l'artiglieria armena che ha colpito Gania, la seconda città più popolosa dell'Azerbaigian. Bombardamenti indiscriminati sui civili da ambo le parti, questa è la denuncia di Croce Rossa. Vengono distrutti ospedali, centinaia di case, scuole, mercati, reti idriche e telefoniche, tubi del gas. Dall'inizio delle ostilità, ma lo ripeto ancora una volta, è quasi superfluo dare questo tipo di bilanci, perché i numeri vanno presi con le molle. Sarebbero almeno 200 i soldati morti, 18 i civili uccisi, mentre i feriti arrivano a centinaia negli ospedali. Ha preso posizione il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ricordiamolo con l'Armenia ha un patto di mutua assistenza. Ha avvertito l'Azerbaigian che stanno morendo troppi civili armeni, mentre ha destato scalpore l'annuncio della liberazione di un villaggio, leggo testualmente, dal giogo dell'occupazione armena. Annuncio che, immaginerete voi, come immaginavamo noi, poteva arrivare da Baku, da parte azera. Invece ha destato scalpore il fatto che sia stato il ministro della difesa turco ad annunciare la liberazione di quel villaggio prima appunto di Baku stessa, il che evidentemente rende palese quella che è la vicinanza delle due nazioni, anche l'alleanza militare. Non ci sono margini per il momento per il cessate il fuoco, la diplomazia è ancora al lavoro, ma la sensazione ancora una volta che l'Europa stia assistendo a un conflitto vero e proprio alle porte dell'Unione Europea, senza fare troppo. E poi in Bielorussia, altro fronte caldissimo, 100.000 persone si sono radunate ieri a Minsk, in altre città del paese, per chiedere la liberazione dei prigionieri politici e soprattutto l'uscita di scena di quello che per molti è l'ultimo dittatore d'Europa, Alexander Lukashenko. La polizia ha reagito usando idranti, sparando da cannoni d'acqua montati su grossi camion per cercare di disperdere i manifestanti e arrestandone poi diversi. Qui almeno si muove la diplomazia, e forse la si muove in maniera più efficace, ma soltanto il tempo ci darà ragione. Vi ricordate le sanzioni imposte dall'Unione Europea contro 44 dirigenti del regime bielorusso, ma anche in realtà Lukashenko? E questa è una mossa di qualche giorno fa. La cancelliera tedesca Angela Merkel incontrerà domani a Berlino la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Il regime intanto ha revocato 2 giorni fa l'accredito ai giornalisti stranieri come ritorsione per le sanzioni, e questo è naturalmente un pessimo segnale, una bruttissima notizia, perché significa che in questo modo la Bielorussia diventa sempre di più un buco nero, e reportage e notizie indipendentemente verificate diventeranno naturalmente sempre più difficili da avere. Ricordiamo che il grosso della manifestazione di ieri si è diretta proprio verso il centro di detenzione di Minsk, dove sono detenute da parecchio oramai altri leader dell'opposizione. Brutte notizie arrivano anche dall'Afghanistan, perché questa mattina un attacco suicida ha colpito il convoglio di Rahmatullah Yarmal, che è il governatore della provincia di Lagman, nell'est del paese. Esplosivo posizionato a bordo di un'auto, l'auto lanciata contro la scorta del governatore locale, 4 guardie del corpo uccise nell'esplosione, 38 civili feriti. Sembra però che il governatore sia riuscito a scampare, addirittura uscito indenne dall'attacco. Non vi sono però rivendicazioni. Nell'area operano sia gruppi talebani che gruppi dello Stato Islamico. Staremo a vedere se nelle prossime ore, soprattutto sui canali Telegram dove si appoggia il sedicente Stato Islamico, vi saranno rivendicazioni, o se i talebani, come spesso fanno, attaccano e poi negano qualsiasi responsabilità. A proposito di elezioni, la settimana scorsa vi raccontavamo del totale differente tenore di un dibattito elettorale che si era tenuto fra due politiche, Jacinta Ardern e la Collins, che si sfidano per le politiche, per i loro partiti in Nuova Zelanda. Continuiamo il nostro viaggio per cercare di capire in qualche modo quale sia l'asticella e come si possa alzare e abbassare a seconda dei paesi in cui si svolgono le tornate elettorali. Interessante quello che è accaduto in Bolivia. Mancano 2 settimane al voto, si voterà il 18 ottobre. 5 dei 7 candidati alla presidenza si sono presentati ieri davanti alle telecamere in diretta nazionale. Quello che è stato interessante e stupefacente allo stesso tempo è che sostanzialmente i candidati si sono prodotti in una serie di monologhi senza alcuna non solo interruzione, ma anche possibilità di colloquiare con le altri candidati alla presidenza, né con un moderatore. In buona sostanza si è accesa la telecamera e si è porto il microfono per far raccontare quelli che sono i provvedimenti, i progetti, i piani per il futuro del paese. Ai candidati sono stati dati 90 secondi per presentarsi e 2 minuti poi per rispondere alle domande poste dai conduttori su democrazia, giustizia, economia, salute. Però detto ciò, nessuna interazione assolutamente e nessuna possibilità di contestare o andare a in qualche modo a contraddire quello che veniva detto. Infine, in questi mesi di Nessun Luogo Lontano vi abbiamo spesso raccontato della pandemia, cercando sempre di raccontarvela in modi diversi, cercando punti di vista inusitati, raccontandolo molto spesso come grande, gigantesco stress test anche politico, acceleratore di conflitti e di crisi un po' in giro per il mondo. È uscito ai primi di ottobre l'Atlante delle guerre e dei conflitti, che è una pubblicazione che annualmente in modo molto chiaro fa una ricognizione su quelli che sono appunto i conflitti in corso per il mondo. È uscito da pochissimo, fresco di stampa, anche un aggiornamento dedicato proprio allo sviluppo del Covid e ai riflessi della pandemia sugli equilibri geopolitici mondiali. Sentite Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti. Quello che appare certo è che il Covid-19 certamente non ha migliorato la situazione del pianeta, anzi per molti versi l'ha peggiorata, ha fatto esplodere, diventare esplicite crisi che erano latenti ma che adesso sono diventate appunto pubbliche, come quella fra Cina e Stati Uniti, ha riposizionato potenze medie. Insomma, dal punto di vista della geopolitica, come si dice, o del posizionamento militare, le cose sono abbastanza peggiorate. Penso allo scontro fra Stati Uniti e Cina, che ha portato al riposizionamento delle flotte statunitensi, al posizionamento, al potenziamento della flotta cinese per controllare il mar della Cina. Penso alla Russia, che attraverso gli aiuti medici ha riconquistato una credibilità che forse stava perdendo e che comunque è in crisi, crisi dovuta anche alla forte crisi economica. Penso alla Turchia, che appunto mescolando aiuti medici, sanitari e presenza militare in Libia sta tentando di ricreare un impero mediterraneo, penso all'Oceania, che ha deciso di opporsi con molta forza, alleandosi, alleanza tra Nuova Zelanda e Australia, alla presenza, allo strapotere della Cina nel Pacifico. Insomma, il Covid non ha migliorato come pensavamo e speravamo il mondo, non ci ha portato a essere un po' migliori, un po' più tollerati, presenti, più disponibili a creare, come dire, condizioni migliori di vita per gli esseri umani. In realtà, dal punto di vista militare, assisteremo probabilmente a una crescita della spesa e della presenza militare nel mondo. La voce di Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti. Tante infografiche, tante mappe e poi le foto di Fabio Bucciarelli, fotografo, le ha scattate per il New York Times, che danno anche un impatto molto plastico, molto visivo di quello che è stato appunto l'impatto stesso del Covid-19. Sono questi i nostri dossier internazionali, spunti, approfondimenti che diventeranno puntate di Nessun Luogo Lontano. Detto ciò, proviamo a ricapitolare i 5 giorni più lunghi per la Casa Bianca. Giorno 1, mercoledì 30 settembre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo staff volano a Duluth, Minnesota, per un comizio che dura solo 45 minuti. Durante l'evento, Hope Hicks, consigliera della Casa Bianca tra le più strette collaboratrici di Donald Trump, manifesta sintomi relativi al virus. Hicks viene isolata in una cabina separata dal resto dell'aereo. Giorno 2, giovedì 1 ottobre. Intorno alle 13, Donald Trump lascia la Casa Bianca in elicottero per un evento di raccolta fondi al golf club di sua proprietà Bedminster, nello stato del New Jersey. Quella sera stessa, durante una teleconferenza con gli elettori dell'Iowa e subito dopo in una telefonata con l'anchor di Fox News, Sean Hannity, la voce di Trump suona rauca e debole. Donald e Melania Trump si sottopongono immediatamente al test e risultano entrambi positivi. Questa è la prima parte del nostro racconto. Stiamo provando a ricapitolare questi giorni che sono particolarmente caotici e convulsi. A dispetto di un messaggio, per esempio, di un ascoltatore che scrive: non ho visto dei messaggi contraddittori, Trump sta bene, vi farà perlomeno sudare anche stavolta, mettetevi il cuore in pace. Il nostro cuore, gentile ascoltatore, è assolutamente in pace, anzi devo dire che in noi c'è preoccupazione per lo stato di salute del presidente statunitense, mentre le comunicazioni che sono arrivate dallo staff medico sono state assolutamente contraddittorie. Molto opaca anche la gestione delle prime ore con la X, come avete sentito, che era positiva, mentre sostanzialmente Donald Trump ha continuato a muoversi, così come non so neanche che aggettivo usare, però sicuramente da biasimare quei 20 minuti in cui Donald Trump è entrato nella sua limousine, che è antiproiettile, che è efficace contro attacchi chimici, ma al suo interno no. E c'era un presidente positivo con un autista e un agente delle forze speciali di sicurezza che erano a strettissimo contatto col presidente. In proposito, la CNN, per esempio, che ha stigmatizzato evidentemente il comportamento del presidente, ricordava come, e ascoltando anche vari esponenti dei servizi, ex agenti della CIA, e questo è uno dei casi in cui, quando è in gioco la sicurezza del presidente statunitense, i suoi agenti di sicurezza possono vietare una mossa o un gesto. Ecco, in questo caso il presidente ha messo a repentaglio la salute dei suoi collaboratori, e in quel caso il diniego non era possibile. La risposta molto laconica alla domanda del giornalista della CNN è stata: semplicemente non possiamo dire di no in questi casi. Arrivano altri messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto. Non solo ricapitoleremo queste ultime convulse ore, ma cercheremo di capire quali sono le vulnerabilità e le fragilità di un paese in questo momento, il cui presidente è positivo al Covid e il cui stato di salute ancora non è assolutamente chiaro. Dall'ospedale fanno sapere che potrebbe essere dimesso addirittura già oggi. Sintomi lievi, si diceva, ma in realtà, a guardare il trattamento anche farmacologico che è stato fatto al presidente Donald Trump, è quello che viene fatto ai malati più gravi di Covid-19. Con quali conseguenze? Intanto proseguiamo col nostro viaggio. Giorno 3, venerdì 2 ottobre. Poco prima dell'una del mattino, ora di Washington, Donald Trump annuncia con un tweet di essere positivo al coronavirus. This morning the president is doing very well. At this time the team and I are extremely happy with the progress the president has made. Le borse americane aprono in ribasso. In mattinata, il bollettino diffuso dal medico della Casa Bianca, dottor Sean Conley, comunica che Donald Trump ha la febbre alta e che i suoi livelli di saturazione d'ossigeno sono scesi al di sotto del 94%. Late Friday morning, when I returned to the bedside, the president had a high fever and his oxygen saturation was transiently dipping below 94%. I medici somministrano al presidente ossigeno supplementare. I livelli tornano normali e quella sera stessa Donald Trump viene condotto al Walter Reed National Military Medical Center, un ospedale militare. Tutti i mercati americani chiudono in ribasso. Giorno 4, sabato 3 ottobre. Il livello di ossigeno nel sangue del presidente si abbassa per una seconda volta e a questo punto i rapporti sulla salute di Trump diventano contraddittori. Da un lato, il dottor Conley riferisce che il presidente non ha la febbre e non necessita di ossigeno ulteriore. Dall'altro, il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, fornisce un quadro più preoccupante. La stampa si scatena sulle differenze tra i due bollettini, suggerendo che il dottor Conley abbia volutamente minimizzato. In serata, Trump diffonde un primo video su Twitter ringraziando i sostenitori. Giorno 5, domenica 4 ottobre. I recommended the president we try some supplemental oxygen, see how he'd respond. In una nuova conferenza stampa, il dottor Conley riferisce che il livello di ossigeno nel sangue di Trump è tornato al 98%. Il medico della Casa Bianca ammette di avere modificato il rapporto sulle condizioni di Trump per aumentare l'ottimismo del paziente e del suo staff e suggerisce che il presidente potrebbe essere dimesso oggi stesso, lunedì. Nel pomeriggio, Donald Trump esce brevemente dall'ospedale a bordo della sua auto, circondato dalle guardie del corpo, per salutare i sostenitori. Scattano le polemiche sull'opportunità di un'uscita del genere che avrebbe sottoposto il personale della scorta a un pericolo inutile. In serata, Donald Trump diffonde un altro video su Twitter, nel quale sembra molto più in salute e sostiene di aver imparato molto sul Covid-19. E adesso naturalmente le prossime ore ci daranno una risposta, forse non definitiva, A, sullo stato di salute del presidente statunitense, B, sull'eventuale prosieguo della campagna elettorale. 349-238-6666 per voi, e mentre digitate commenti e domande fatemi andare in diretta a New York con la voce di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Marco, in molti si stanno chiedendo il perché della poca trasparenza da parte della Casa Bianca, poi anche dello staff medico, della superficialità del presidente nel trattare le ultime ore, le ultime giornate, non c'è dubbio. Quanto è forte questo dibattito sulla stampa, sui media statunitensi, e secondo te che reazione c'è da parte della popolazione? Il dibattito è sicuramente molto forte tra i media statunitensi ed è anche forte nell'opinione pubblica. Diciamo che la tradizione così della scarsa trasparenza alla Casa Bianca nella storia, diciamo, dei presidenti americani è abbastanza radicata, insomma. Si racconta di come appunto presidenti da Woodrow Wilson a Roosevelt, diciamo, le loro condizioni, diciamo, reali di salute fossero state tenute, diciamo così, molto top secret anche quando stavano male. Però parliamo di altri periodi storici. In epoca più recente, diciamo così, e nell'epoca mediatica, nell'epoca, diciamo così, della contemporanea, diciamo così, della democrazia anche americana, ecco, il livello di trasparenza è stato sicuramente maggiore. Diciamo così, per fare un esempio, la figlia di Ronald Reagan ha raccontato di recente, questi giorni, proprio criticando, diciamo così, l'atteggiamento della Casa Bianca sotto Trump, di come quando Ronald Reagan fu colpito da un proiettile, diciamo, fu tentato assassinio Ronald Reagan, in realtà lo staff della Casa Bianca cercò, anche commettendo alcuni errori di informazione perché non erano chiare subito le informazioni, ma comunque cercò di essere il più trasparente possibile nei giorni e nelle ore immediatamente successive. Ecco, questo non è sicuramente il caso oggi, come ricordavi tu, per le contraddittorie affermazioni dello staff personale medico, personale del presidente e anche dell'entourage così politico, diciamo, contraddizioni che sembrano legate, questa diciamo è la, così, la, l'accusa, la critica, legate più alla, alla, al desiderio di lanciare un messaggio politico, cioè il presidente sta bene nonostante tutto, il presidente è al comando, è in controllo del, della Casa Bianca e della campagna elettorale, più che in realtà riflettere le vere condizioni, sì, e il, così, le vere preoccupazioni. Detto questo, l'altra domanda che ponevi è più difficile da, è più difficile da darle una risposta. L'impatto sul paese appare in questo momento diciamo un ulteriore forse radicamento delle divisioni a livello di opinione pubblica. I sostenitori di Trump più convinti consolidano la loro attrazione al presidente, la loro fiducia nel presidente, mentre chiaramente diciamo la parte invece dell'opinione pubblica più vicina ai democratici in questo momento, ecco, invece consolida le proprie posizioni così di critica e di incapacità diciamo di offrire leadership della Casa Bianca. Sì. La voce che state ascoltando è quella di Marco Valsani in diretta da New York, corrispondente del Sole 24 Ore, che ci stava raccontando un po' le reazioni da parte dei colleghi dei media americani, tra cui per esempio la CNN. Daniele da Viareggio: la bolla come fake news, come dice il grandissimo presidente, così scrive Daniele. Qualcun altro scrive: purtroppo un presidente non all'altezza degli Stati Uniti, auguri al presidente. Allo stesso tempo altri ascoltatori si augurano ogni bene per Trump, ma che allo stesso tempo il 3 novembre gli Stati Uniti scelgono un altro presidente. Anche Marco Valsania sottolineava pur brevemente quello che è l'aspetto della sicurezza. L'abbiamo in parte ribadito anche nella scorsa puntata di venerdì, ma non è per un gioco semi-paranoico. È evidente che lo stato di salute della principale potenza al mondo è una questione anche di sicurezza nazionale e internazionale. Un lungo articolo di Foreign Policy, che peraltro alcuni ascoltatori hanno letto e suggeriscono, raccoglieva commenti, interviste di ufficiali, analisti, esperti, che sottolineavano fra le altre cose, per esempio, che la Cina potrebbe aumentare la pressione su Taiwan, approfittando di questi giornati di maggiore fragilità, diciamo, o vulnerabilità, mettiamolo così, della politica americana, e la Russia nell'est Europa potrebbe approfittare appunto dello stato di salute del presidente e del, chiamiamolo, leggero caos che si potrebbe intravedere all'orizzonte, quantomeno nello studio ovale. Marco Valsani, l'ultima domanda ti chiedo di rispondere in 30 secondi se riesci. Sul fronte democratico si proverà a capitalizzare in maniera cinica e spietata questo momento, secondo te? Direi non ci sono segnali di questo genere. Sicuramente la campagna non si interrompe, ma non si interrompe in realtà perché anche questo è un fatto senza precedenti. Un presidente in ospedale diciamo a meno di 30 giorni dal voto è comunque una situazione senza precedenti nella storia elettorale americana. Ecco, quindi diciamo la campagna continua e anche a toni forti, diciamo, forse un po' meno personali in queste ore, diciamo, no? Senza attacchi personali. Ricordiamo Biden ha ordinato la cancellazione, la sospensione per il momento di pubblicità negative, sì. Ma comunque politicamente resta intensa. Biden continua, il candidato democratico Joe Biden continua a fare campagna oggi in Florida, nel seguito della settimana sarà in Arizona, stati contesi. Il dibattito tra i vicepresidenti che assume particolare rilievo in questa situazione. Dopo domani, vero? Se non erro, Marco. Esatto, tra Mike Pence e la vicepresidente. E quello sarà Harris, democratica. Sarà interessantissimo. Esatto, e quindi sarà praticamente interessante in questa dinamica. E quindi diciamo l'intensità della campagna a livello politico resta, come tra l'altro ha confermato anche lo stesso Trump oggi, diciamo, ha comunque mandato una serie di tweet fortemente diciamo politici dall'ospedale, in cui ha ribadito le ragioni per cui votare per lui, dalla difesa del secondo emendamento sul porto delle armi. Sì, ha stilato un vero e proprio programma elettorale nel giro di una ventina di tweet, devo dire è stato particolarmente attivo, ma a queste cose ci ha abituato il presidente Trump. Intanto grazie mille Marco Valsania, corrispondente Sole 24 Ore da New York. Buona giornata, buon lavoro Marco. E noi velocissimi, a proposito di come anche lo stato di salute del presidente possa condizionare i mercati, andiamo a sentire come vanno le borse. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Sono giornate molto molto intense, per usare un eufemismo, per non soltanto il presidente americano Donald Trump, ma per tutto lo staff della Casa Bianca. Si sta cercando disperatamente di capire quali persone possono essere state contagiate. Si sta monitorando la situazione minuto dopo minuto e non è escluso che quest'oggi il presidente torni già a casa e venga dimesso dall'ospedale. Stiamo cercando di mettere in luce quelle che sono state alcune delle opacità e delle contraddizioni nella comunicazione sia da parte della Casa Bianca che da parte dello staff medico. Questo non tanto per una cinica o perversa volontà di sottolineare alcune manchevolezze, non sono manchevolezze, in gioco la sicurezza degli Stati Uniti e la sicurezza internazionale. In molti articoli parecchi analisti mettono in luce anche questo aspetto, che gli Stati Uniti in questo momento, in queste ore, potrebbero essere più vulnerabili del solito. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Mi fa amaramente sorridere, ve lo devo confessare, un commento di un ascoltatore su Facebook, proprio che dopo che venerdì abbiamo fatto una lunga puntata tutta dedicata a QAnon, alle teorie complottiste. L'ascoltatore scrive: il presidente Trump aveva, sembra, a disposizione, come molti militari di diverse nazioni, la clorochina, quindi dubito molto che abbia il coronavirus. Così scrive l'ascoltatore: constato che voi di Radio 24 fate parte di quel mainstream, quindi totalmente a sfavore di Trump, vale a dire che siete dalla parte molto oscura del deep state, il che mi dà molto da pensare. Che peccato, così chiude un ascoltatore. Detto ciò, andiamo a sentire un'altra voce. È una figura molto molto autorevole, ha lavorato sia per candidati repubblicani che democratici, è uno stratega politico, partner della società di consulenza non partisan Renegade Public Affairs di El Paso in Texas, ha lavorato fra gli altri per John McCain. Qual è l'impatto che lo stato di salute di Trump potrebbe avere sulla sua campagna? Avrà un impatto? Così gli ha chiesto Antonio Talia, sentite. Not having political rallies for Trump. Anche se la maggior parte del suo staff sosterrà che non è un grosso problema, per Trump l'impossibilità di partecipare a grandi raduni politici significa tutto. Se vi ricordate, nel 2016 è stato così che Trump ha davvero diffuso il suo messaggio in tutto il paese. Quando Trump viaggiava in una città o in un paese nel bel mezzo dell'America rurale, dell'America periferica, era capace di attirare decine di migliaia di persone ai suoi raduni. Tutti volevano vedere Trump. Erano eccitatissimi. Lo avevano visto in TV per tutta la loro vita e lo consideravano una vera celebrità. Inoltre, attraverso questi raduni, lo staff di Trump poteva anche ottenere il numero di cellulare di ogni singolo partecipante. Raccoglieva i loro indirizzi, capiva chi sarebbe stato adatto a servire come volontario durante la campagna. Quindi questi enormi raduni non erano solo ottimi per la resa davanti alle telecamere, ma servivano allo staff politico di Trump anche per avere informazioni approfondite sui potenziali elettori. Dopo ognuno di questi raduni, lo staff calcolava precisamente quanti repubblicani si erano presentati, quanti democratici, quanti indecisi e quanti nuovi sostenitori si sarebbero potuti guadagnare. Quindi l'impossibilità di organizzare raduni politici costituisce un duro colpo per la campagna di Trump, perché nella storia elettorale americana non si sono mai visti raduni con numeri come quelli. Se togliamo questo a Trump e lo sommiamo con l'impossibilità di condurre una campagna tradizionale a causa del Covid e aggiungiamo anche i 14 punti di svantaggio negli ultimi sondaggi, beh, al momento la sua corsa alla riconferma mi sembra senza speranza. You know, he's looking pretty hopeless right now. Questa è la voce di Carlos Sierra, stratega politico Renegade Public Affairs, El Paso, in Texas. Lo ha raggiunto Antonio Talia. Per onestà intellettuale vi ricordo che oltre ad aver lavorato sia per repubblicani che per democratici, ha lavorato in passato anche per il peso massimo repubblicano John McCain. Buongiorno intanto e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Stefano Mele, avvocato, esperto di cyber security, membro del consiglio direttivo, presidente della commissione sicurezza cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stefano, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, ben ritrovato. Allora, Stefano, ci sono altri virus che forse sono stati attivati in questi 5 lunghi giorni. Orecchie si sono drizzate, occhi si sono posati sulla Casa Bianca, occhi credo non solo sulla Casa Bianca, probabilmente anche sull'ospedale e sugli Stati Uniti. Occhi credo da Pechino, Mosca, Teheran, Pyongyang. Che cosa può essere accaduto secondo te in queste ultime ore? Qualcuno potrebbe aver attivato team per attivare cyberattacchi? Beh, ovviamente non abbiamo informazioni precise al riguardo, ma la logica, anche guardando lo scenario attuale e quello passato, soprattutto sotto le campagne elettorali negli Stati Uniti d'America come in altre nazioni primarie, ci impone quasi di dire, di rispondere assolutamente sì a questa tua affermazione, Giampaolo. Sarebbe strano il contrario del resto, parliamo dell'uomo più importante del mondo, dell'uomo più potente del mondo, parliamo comunque di una figura di assoluto rilievo che è in corsa purtroppo in, diciamo, umanamente come milioni di persone in giro per il mondo, certo. In questa crisi, è stato coinvolto in questa crisi sanitaria, quindi è assolutamente molto molto probabile, a mio avviso, che sia lo cibernetico, livello tradizionale con classiche persone pagate, i principali attori nemici fra virgolette degli Stati Uniti, ma io credo, perché nel mondo dello spionaggio amici non ce ne sono mai fino in fondo, anche moltissime nazioni amiche degli Stati Uniti d'America si siano attivate attraverso la loro rete di contatti umani, appunto, così come diciamo attraverso le connessioni cibernetiche, per capire anzitutto le reali condizioni di Trump, anzitutto magari prendere informazioni sanitarie ulteriori rispetto, certo, a quelle strettamente legate al coronavirus. Ricordiamoci che inevitabilmente un paese, in questo caso ovviamente nemico, potrebbe avvantaggiarsi enormemente dal sapere, non so, che il presidente X o il presidente Y non abbiano ulteriori patologie, peraltro potenzialmente sfruttabili nel caso dovessero decidere di eliminarlo in maniera un po' più brutale. Quindi è chiaro che le agenzie di intelligence dei paesi nemici e dei paesi amici si muovano per raccogliere, da una parte, informazioni generiche sulla veridicità, sulle ricadute, quindi facendo fare anche delle analisi, dall'altro magari quelli nemici anche ottenere il maggior numero di informazioni possibili. Vogliamo buttare lì quasi che fosse un romanzo di spionaggio? Magari capire se qualche medico amico di quella nazione o quell'altra potrebbe anche essere disposto a, diciamo, tentare di far fuori il presidente degli Stati Uniti d'America. È la bella trama di un film, ma poi scopriamo nel corso del tempo che le trame dei film molte volte ci prendono molto meglio dei libri di storia. Non c'è dubbio, molto spesso la realtà, quella di cronaca, quella giornalistica, supera anche le aspettative della fiction. Qualche ascoltatore peraltro lo sottolineava, quasi facendo eco alle parole di Stefano Mele. Piccola pausa, anzi c'è una breaking: un'equipe della Casa Bianca è in strada diretta al Walter Reed Medical Center, lo ha titolato Maggie Haberman, corrispondente Casa Bianca, New York Times. E allora, visto che l'equipe della Casa Bianca è in strada, anche noi ci andiamo. Viabilità, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Il nostro divano, quante emozioni. Qui abbiamo visto Celebrity Hunted. Il tavolino della nonna, che ricordi. Qui è dove abbiamo messo la superfibra Wind 3. Ma un pensiero romantico? Guardiamo Mother Love. Scegli la superfibra Wind 3 a €28,98 al mese entro il 25 ottobre. Per te 12 mesi di Amazon Prime con film e serie TV di Prime Video inclusi. Copertura e condizioni su wind3.it. Vieni nei Wind 3 Store o chiama il 159. Wind 3, molto più vicini. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, le ore della vulnerabilità, questo è il titolo dell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Con noi Stefano Mele, fra le altre cose presiede la Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Ci hai ben spiegato, Stefano, quelle che sono le vulnerabilità che alcune potenze straniere stanno o potrebbero sfruttare in queste ore, e come si sta apparecchiando la difesa degli Stati Uniti proprio mentre in questo momento stiamo parlando ai nostri ascoltatori. Beh, la difesa inevitabilmente è un qualcosa che va preparata anzitutto prima, quindi si stanno attuando dei piani di difesa già predisposti precedentemente e sicuramente sono legati allo strettissimo controllo sulle informazioni in possesso di soggetti sulla sulla salute del presidente Trump è, sotto il punto di vista tecnologico, inevitabilmente andare a stringere ancora di più le maglie della sicurezza cibernetica, della difesa cibernetica intorno a lui, in modo da controllare e verificare che chiunque acceda alle informazioni e chiunque le condivida, ovviamente per ragioni lecite. Chiarissimo, e grazie mille anche di questo altro lato della medaglia, il tutto ovviamente nel nome della sicurezza. È stato con noi Stefano Mele, avvocato esperto di cyber security, ricordo presiede la commissione sicurezza cibernetica del Comitato Atlantico Italiano. Stefano, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Torniamo allora all'aspetto prettamente politico. Carlos Sierra, stratega politico, partner della società di consulenza non partisan Renegade Public Affairs El Paso in Texas. Lì l'ha raggiunto Antonio Talia e gli ha chiesto molto semplicemente cosa farebbe se fosse nello staff di Biden e cosa farebbe se fosse nello staff di Trump nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sentite. Well, Biden's, you know, being on his team would be easy because I would tell him not to let up. I would tell him to, you know. Riguardo a Biden, se fossi della sua squadra, sarebbe facile perché gli direi di non mollare e di giocarsi tutte le carte su tutti i fronti. Sul digitale, per posta, con le chiamate, eccetera. Tutto ciò che serve per condurre una campagna presidenziale. Voglio dire, Biden ha accesso a milioni di dollari. Deve continuare a battere il ferro. Penso che i sondaggi possano far perdere la testa. Ieri è uscita la notizia che Biden avrebbe 14 punti in più rispetto a Trump a livello nazionale. Ha guadagnato 5 punti o più nella maggior parte degli stati contesi, tranne in North Carolina e Florida. Da consulente, spero che i membri della sua squadra ignorino i sondaggi nazionali e continuino a lavorare sodo, perché è stato un errore abbandonare gli spot contro Trump quando gli è stato diagnosticato il COVID. Penso anche che la strategia di Biden di rimanere un po' defilato sia stata un errore. Credo che il suo staff confidasse nel fatto che Trump facesse degli autogol e sicuramente li ha commessi, ma Biden è stato per troppo tempo sottotono. Quindi mi piacerebbe vedere Biden e Kamala Harris più spesso insieme, cosa che hanno appena iniziato a fare. Anche perché la Harris è molto brava nel fare campagna elettorale. Sa come parlare agli elettori, sa come interagire, sa essere alla moda e riesce a comunicare con i giovani dai 18 ai 35 anni, mentre Biden può gestire il resto. Quindi sì, penso che debbano giocare tutto in questi ultimi 30 giorni, comportarsi come se fossero sotto di 10 punti percentuali. Rispetto a Trump, penso che i repubblicani debbano lavorare sui suoi messaggi, spingere molto sulla Corte Suprema, sui temi legati all'aborto e ai movimenti pro-vita. Devono assicurarsi i voti degli evangelici, di quelli preoccupati per la sicurezza nazionale, degli elettori pro-business in favore di Wall Street e delle tasse basse. Questo perché molte persone, molti uomini d'affari, molti imprenditori, molti proprietari di piccole imprese sono preoccupati che i democratici, una volta al potere, aumentino le tasse, trasformando gli Stati Uniti in un paese socialista. Penso quindi che Trump e il suo team debbano veramente spaventare, con questi temi, quei repubblicani moderati, gli elettori indipendenti, quelli che noi chiamiamo l'America rurale. Ci sono, per esempio, democratici conservatori che tendono a votare per i repubblicani alle elezioni generali. Penso che Trump debba davvero prendere di mira questa categoria a livello nazionale, lavorando molto sull'Arizona o in Florida. Questa la voce, il commento, l'opinione di Carlos Sierra. Ve l'avevo preannunciato, un peso massimo all'interno della politica americana, uno di quelli che lavora nell'ombra, è uno stratega politico, ha lavorato per repubblicani e democratici su tutti, il nome più di peso forse era John McCain. Molti ascoltatori ribadiscono attenzione ai sondaggi, attenzione a non dare per scontata la vittoria di Biden, e non c'è dubbio, lo ripetiamo ogni volta che parliamo di elezioni statunitensi. Detto ciò, dovrebbe lavorare in Arizona e in Florida, vedremo se le condizioni di salute glielo permetteranno. Da qui al 3 novembre sarà davvero una tornata elettorale, una lunga cavalcata, un lungo avvicinamento forse senza precedenti nella storia politica statunitense. Detto ciò, vi faccio sentire un invito garbato ma cortese di un Trump che all'epoca era in ottimissima forma. Sentite come mi defenestrava. You're fired. You're fired. You're fired.